Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Salve direttore, vorrei capire come mai dopo questa crisi finanziaria in TV e nei giornali si vedono molte pubblicità delle banche online. Mi sembra quasi una presa in giro. Nicola. Caro Nicola, le banche online sono un'innovazione importante nel panorama dei servizi finanziari e non vedo perché debbano essere considerate una presa in giro. Quello del credito è per fortuna un mercato aperto in cui si confrontano grandi e piccoli operatori, in cui proprio la concorrenza può offrire ai clienti un servizio migliore e condizioni di maggior favore. Le banche online sono una formula per ridurre i costi e per evitare i fastidi e le perdite di tempo agli sportelli. L'evoluzione dei servizi nel campo bancario non ha peraltro alcun riferimento con la crisi ed è un'evoluzione resa possibile più dalle innovazioni tecnologiche che mettono a disposizione strumenti sempre più affidabili e sicuri che non da scelte dettate da motivazioni strettamente finanziarie. E comunque è importante anche che i clienti si abituino a confrontare le offerte e, se può essere utile e necessario, anche a cambiare banca in cerca di condizioni migliori. Anche così il mercato può funzionare e offrire servizi in grado di rispondere a tutte le esigenze dei consumatori. A quando una giornata della memoria degli orrori dei due regimi totalitari, nazista e comunista, che hanno insanguinato il secolo scorso? Perché solo di uno? E poi, non dovremmo ricordare il genocidio di vite interrotte tramite l'aborto, ben 15 milioni in questi ultimi 10 anni, in un'Europa che si dice civile? Ogni anno viene celebrata, giustamente, la giornata della memoria di quanto avvenne nei campi di sterminio nazisti. Io ritengo però che questa celebrazione rischi di diventare la celebrazione dell'Olocausto per eccellenza, mentre noi cristiani sappiamo, o dovremmo sapere, che la più grande tragedia è la crocifissione e la morte di Cristo. Per questo sarebbe bello e utile che questa giornata diventasse una meditazione sul male, sul mistero di iniquità, che nel secolo scorso ha avuto due espressioni tremende nel nazismo e nel comunismo, e oggi nelle moderne ideologie che coprono di silenzio i milioni di vite interrotte in germe. Un genocidio silenzioso, coperto di legalità. Ecco, una meditazione annuale sul mistero di iniquità e su come le religioni hanno cercato di dare risposta opporre argine a questo mistero terribile. Questo mi parrebbe più opportuno. Ma una meditazione di questo genere potrebbe essere politicamente scorretta, in quanto si potrebbe essere accusati di riduzionismo o altro. Claudio. Chissà se ora, alla luce degli ultimi avvenimenti, molti degli abitanti di Bologna che criticavano il Cavaliere per le sue frequentazioni avranno avuto un ripensamento. Non sarà l'ideale andare a prostitute, ma forse a sinistra non lo fa nessuno? Devo pensare allora che nel PD sia ritenuto ideale andare con i trans o portare l'amoroso in vacanza a spese dei contribuenti. Guardando gli esiti, dovrebbero ricredersi perché il Premier è ancora lì, anche perché se non avesse avuto quel tipo di grane ne avrebbe sicuramente avute delle altre. Gli altri due invece si sono dimessi. Franco. Mentre noi facciamo i fighetti sulle opinioni nette, chiare, dure e poco diplomatiche di Bertolaso in merito agli scoordinati aiuti agli haitiani, i paesi politically correct, cioè Canada, Haiti e gli Stati Uniti, rappresentati da Hillary Clinton, si sono incontrati in Canada, hanno osservato un minuto di silenzio per i morti di Haiti, hanno discusso, hanno concordato, hanno elaborato e sono usciti con un comunicato stampa che dice: «Haitiani, abbiate pazienza. Ci vorranno 10 anni per ricostruire quello che il terremoto ha distrutto. Andate a dirlo agli haitiani che oggi stanno morendo di fame, sete, setticemie e cancrene, che la diplomazia dice che ci vorranno 10 anni a risistemare le cose del dopo terremoto. E se avessimo detto agli abruzzesi di pazientare 10 anni o giù di lì? Amo l'America e gli americani, ma diciamolo chiaro. Gli americani dovevano innanzitutto sbarcare i Marines prima che arrivasse qualcun altro ad occupare la piazza. Lettera firmata. Sono stato ad Haiti nel 2004 per programmi di cooperazione. Uno strazio. L'uscita di Bertolaso mi pare circostanziata, nonostante sia stata strafottente e piuttosto inopportuna, visto il momento. Ma qui entra in gioco il marketing mediatico. Quindi, quali accuse possiamo ragionevolmente fargli? Andrea. Ho sentito le critiche a Bertolaso per quello che ha detto sull'intervento degli americani ad Haiti. Vorrei ricordare una cosa soltanto. Rammentate il flop degli aiuti alla popolazione di New Orleans qualche anno fa, in occasione di un tifone? Se gli americani non sono stati in grado di aiutare i propri concittadini, figuriamoci in un altro stato. E poi perché Bertolaso è stato inviato a Port-au-Prince? Se, come esperto di queste situazioni, non avesse dovuto dare alcun parere, forse sarebbe stato meglio che ci fosse andato magari l'onorevole Frattini. Certo è che gli americani hanno messo in campo ingenti mezzi, ma come dice Bertolaso, in quanto ad organizzazione sono un disastro, come hanno dimostrato in molte parti del mondo. La signora Clinton, invece di reagire in quella maniera, avrebbe dovuto proporre Bertolaso come coordinatore degli aiuti ai terremotati in quello sventurato paese. Non vi pare? Franco, da Pisa. Dopo le frasi del presidente francese riguardo l'immigrazione e gli immigrati, noi che figura ci facciamo? Ci siamo autoaccusati di essere razzisti e negrieri per i respingimenti dei battelli di immigrati. Ci siamo presi gli sberleffi e le accuse degli altri stati e ora ci ridono perché siamo alla mercé dell'immigrazione. Ogni tanto qualcuno, politici, giudici, eccetera, si inventa comportamenti proni agli immigrati stessi per non alterare la suscettibilità degli stranieri in Italia. Ma nel mondo che fanno? Avete presente il discorso pronunciato dal primo ministro australiano, che rivolto agli immigrati dice: «Questo è il nostro paese, la nostra terra e il nostro stile di vita. Vi offriamo la possibilità di approfittare di tutto questo, ma se non fate altro che lamentarvi, prendervela con le nostre credenze cristiane o il nostro stile di vita, allora vi incoraggio fortemente ad approfittare di un'altra grande libertà australiana, il diritto ad andarvene». Se non siete felici qui, allora partite. Non vi abbiamo forzati a venire qui, siete voi che avete chiesto di essere qui. Allora rispettate il paese che vi ha accettati. Può essere verosimile un simile discorso? E se vero, che effetto avrebbe fatto per una certa intelligenza girotondina di casa nostra se a pronunciarla fosse stato un Berlusconi o un Maroni di casa nostra? Stefano. Scusate, qualcuno ha notizie della portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite? Laura Boldrini? No? Perché credo proprio che sia in vacanza. Non si spiega altrimenti il silenzio suo e di tutto quell'apparato burocratico che si chiama ONU. Mi riferisco chiaramente alle dichiarazioni del presidente francese Sarkozy, che in un discorso alla Nazione, in riferimento agli sbarchi di clandestini in Corsica, ha apertamente dichiarato: «Non faremo la fine dell'Italia. Noi li cureremo e poi li rispediremo al loro paese». Ebbene, gentile commissario Boldrini, sono sicuro che appena rientrerà dalle vacanze, prenderà carta e penna e gliene dirà di tutti i colori a quel cattivone razzista di Sarkozy, giusto? Perché fu proprio così che fece con il mite Maroni all'epoca dei respingimenti in Libia. E allora, grazie commissario Boldrini, grazie davvero, perché ci vuole un gran coraggio a criticare uno del calibro del presidente francese. E non sia tenera, ci vada giù pesante, perché se un merito le va riconosciuto è quello della coerenza. Auguri, Marzio, Milano. Perché il lodo Alfano era una schifezza, ma andava bene. Sui temi riguardanti la giustizia ci si augura l'incontro di vedute e di proposte, si auspica insomma la riforma condivisa. Lo fa il degno napoletano, lo fa l'ingenuo popolo italiano. Lo fanno anche i politici a tratti. Secondo un illustre nostro avo, chi ha il potere ha tre compiti fondamentali. Primo, mantenersi al potere e preservare se stesso. Secondo, fare il bene e l'interesse generale. Terzo, difendere lo Stato da minacce straniere. Io credo che le tre regole sopracitate siano tutto sommato valide. Certo, in un regime di democrazia la seconda dovrebbe essere più pesante della prima. La terza è implicita in qualsiasi tipo di regime, poiché è parte del fondamento del patto sociale. La prima è del resto affascinante. Il lodo Alfano, da questo punto di vista, era democratico e perfetto. Tutelava il mantenimento al potere di rappresentanti eletti, senza ledere o invadere il secondo principio, ovvero fare il bene e l'interesse generale. Il processo breve lede il secondo principio a scapito del primo. Uno scontro di poteri non è certo una cosa nuova nella dinamica della vita di uno Stato nazionale, ma ora vediamo una classe politica che vuole difendersi da una magistratura che indaga su presunti atti illeciti che la riguardano. È comunque uno scontro di poteri dello Stato, pericoloso certo, ma in qualche modo anche connaturato. In pericolo non c'è la democrazia, ma l'efficienza della macchina democratica è certamente rallentata da uno scontro di poteri. A questo punto sarebbe da sacrificare non sull'altare della morale, ma sul banco del bene del cittadino. Roberto. Non sarà che questa improvvisa e inaspettata cassa integrazione Fiat sia stata progettata a tavolino per far sì che vengano stanziati il più presto possibile i fondi per gli incentivi auto 2010? Roberto. Due settimane in cassa integrazione per 33.000 dipendenti equivalgono a 52 settimane per 1.000 dipendenti di Termini Imerese, più i costi per recuperare la mancata produzione. Tutto già visto, è un vecchio trucco. Luca. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.